A bordo campo di Dario Ricci. Marcianise, poco più di 40.000 abitanti, una piccola cittadina in provincia di Caserta, una grande capitale dello sport italiano. Oggi parliamo proprio dello sport più popolare a Marcianise e dintorni, della box, del grande pugilato, delle medaglie d'oro che arrivano dalla Campania e del valore di questo sport in quelle strade e in quelle palestre. E allora abbiamo davvero un ospite particolare che è un po' ambasciatore di Marcianise nel mondo, Domenico Mirko Valentino, 26 anni, campione del mondo dilettanti pesi leggeri. Benvenuto a bordo campo, Domenico. Buonasera a tutti. Allora Domenico, suona bene, no? Sentirlo dire una volta in più dopo lo splendido successo di Assago, dei mondiali dilettanti di box, insomma sentire il tuo nome e quel titolo di campione del mondo fa sempre ancora un bel effetto, direi. Sì, suona bene, anche se però comunque quando mi chiamano campione del mondo non mi sento io il protagonista di questo, perché comunque questo fa parte della mia umiltà e quindi ancora mi ci devo abituare su questo nome. So anche di grandi feste a Marcianise, in provincia di Caserta, quando sei tornato a casa, perché lì la box è quasi una religione, vero? Sì, diciamo è lo sport principale di questa città. Sì, sono arrivato qui a Marcianise, una grande festa, prima sotto casa mia, poi c'erano alcuni bar che volevano festeggiarmi. Addirittura li ho dovuti dividere per giorni, fino a ieri ho continuato a festeggiare tutta la settimana. Mi riempie d'orgoglio e mi fa piacere che comunque Marcianise mi avvicina e ci avvicina a tutti i pugili. Non è che hai dovuto mettere KO qualche tifoso troppo acceso, no? No, alla fine mi fa piacere. Essere amato così tanto è un piacere. Senti, ma come nasce questo legame tra il pugilato e Marcianise? Provincia di Caserta, una piccola cittadina, da dove però arrivano, oltre al tuo titolo mondiale, arrivano anche altri due campioni del mondo, Tommaso Russo nel 91 e poi Clemente Russo, Tatanka, tuo concittadino e compagno di squadra nel 2007, e poi medaglie olimpiche come il bronzo di Angelo Musone a Los Angeles 84 e l'argento di Russo sempre a Pechino 2008. Insomma, che cosa rende unico questo legame tra Marcianise e la box? Secondo me rende la voglia di emergere e magari la voglia di emulare queste persone. Io penso che tutti volevano emulare Musone quando vinse il bronzo, che poi secondo me meritava l'oro. Poi c'è riuscito Tommaso Russo, che ha vinto il primo titolo mondiale dilettanti. Da Tommaso è passato a Clemente Russo, poi da Clemente la voglia in me di far vedere il vero Valentino chi era, e così via dicendo. Comunque Marcianise c'ha questa bella tradizione e soprattutto la voglia di emergere di questi ragazzi. In questi giorni ci sono le palestre zeppe di ragazzini, di bambini, che per me, secondo me, è la cosa più importante, perché da loro può arrivare un ottimo futuro. Sono pronto a scommettere che tra un paio d'anni ci saranno altri campioni del mondo e magari medagliati olimpici. Tra l'altro questa tradizione affonda le radici nel secondo dopoguerra, di fatto, perché durante il conflitto mondiale i soldati americani di stanza nel sud Italia, appassionati di box, cercavano dei combattenti all'altezza per improvvisare dei match d'allenamento. Proprio a Marcianise ne trovarono molti e da allora è nata una tradizione che oggi conta più di 200 pugili, almeno 3 palestre, e quindi di fatto è per questo che voi siete un po' i depositari di questa tradizione. Una bella responsabilità, no? Poi quando si sale sul ring con la maglietta della nazionale, no Mirko? Sì, comunque una bella responsabilità e anche un bel motivo di orgoglio, perché comunque indossare i colori italiani penso che sia il sogno di qualsiasi atleta. Comunque, tornando prima al fatto delle 3 società di Marcianise, nemmeno a farlo a caso, il primo campione del mondo, che è stato Tommaso Russo, appartiene alla prima società di Marcianise, che è la Ginzi. Poi Clemente Russo appartiene all'Excelsior, che è l'altra società, che l'altro anno ha festeggiato il cinquantennale. E poi l'ultimo sono io, della società più giovane di Marcianise, che ha appena 13 anni. A conferma di avere ottimi pugili, ci sono anche ottimi maestri qui a Marcianise, che anche grazie a loro che si raggiungono questi successi. Insomma, c'è stata quasi una par condicio mondiale, no? Nel dividervi questi ori. Alla fine nessuna società può dire io sono più campione di te, ora siamo tutti alla pari. Sto dicendo questo perché comunque c'è una grande competizione sportiva anche tra le società, oltre che ai pugili, no? Marcianise è anche nel cuore di quel territorio che tristemente è conosciuto per il braccio di ferro quotidiano tra legalità e illegalità, tra istituzioni e camorra. Ad Assago tu hai avuto un tifoso speciale in tribuna, no? Un grande appassionato di box che ti ha reso poi omaggio in un articolo su un quotidiano che ha aperto un po' il dibattito su questa doppia immagine di Marcianise, vero? Sì, comunque glielo ho detto anche di persona, io crescendo in questa realtà di Marcianise gli ho ripetuto che comunque è un grande Roberto. E parliamo, parliamo chiaramente di Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, grande amante di box e che era in tribuna ad Assago. Sì, subito dopo la finale ho avuto una chiacchierata con lui e niente, gli ho ridetto che Marcianise è finito il tempo di Gomorra, come si è letto anche sui titoli dei giornali. Comunque abbiamo passato un brutto periodo qui a Marcianise negli anni 90, che però finalmente ora sembra portato tutto sulla normalità, anche grazie allo sport, al pugilato, abbiamo, oltre ai campioni di pugilato abbiamo una squadra di immunità nella prima divisione, ex 1. Poi abbiamo, fino all'anno scorso abbiamo avuto una squadra di calcetto a 5 in Serie A, poi abbiamo una squadra di pallavolo, se non sbaglio, in Serie B. Sta crescendo anche grazie allo sport e grazie a noi giovani. Ha scritto Roberto Saviano nel lungo articolo che vi ha dedicato a voi campioni della Nazionale Azzurra di Pugilato Dilettanti su Repubblica. Il pugilato con le sue palestre spoglie spartane è in grado di restituire alla parola onore il suo significato originario, di riscattare questa parola sequestrata dalle mafie, considerata ormai impronunciabile, che invece fa riferimento a qualcosa che ti porti dentro e che segui al di là delle dinamiche del calcolo dei costi e dei benefici. Agisci perché è giusto e comprendi che l'onore è qualcosa che esiste dentro di te, al di là delle leggi, dell'educazione e della reputazione che hai. Direi che è un grande atto d'amore per il pugilato, questo testo di Roberto Saviano. Sì, comunque, perché comunque il pugilato è stato sempre soprannominato la nobile arte. Secondo me tutti noi pugili siamo artisti sul ring. Comunque la gente fraintende il pugilato con la violenza, ma non è affatto vero. Se guardate bene Milano, c'era il mio amico Cammarelle, ha incontrato se non sbaglio uno slovacco al secondo turno e gli ha portato il massimo rispetto. Poteva finirlo già dopo 20 secondi, invece l'ha portato il rispetto e questo gli fa onore sia a lui che magari all'avversario aver perso ai punti contro un campione come Roberto. Ecco, ma un campione come te che diventa popolare, che viene poi riconosciuto dai giovani e anche dagli appassionati, sente poi la pressione delle organizzazioni criminali su di sé, perché poi voi diventate anche oggetto del desiderio di queste organizzazioni. Sì, comunque c'è grande responsabilità. Con i giovani devi sempre farti vedere sotto un altro occhio. Sul fatto della criminalità spero che i ragazzi si seguano e fanno sport in generale e che emergano anche loro come abbiamo fatto noi campioni. Senti, mi dicevi di palestre che adesso si sono riempite, no? Dopo i vostri ori, dopo i vostri pugni vincenti, proprio a Marcianise. Come trascorri una giornata tipo con questi ragazzi? Vi incontrate in palestra con questi bambini? Fai un po' da insegnante? Fate il sacco insieme? No, ti dico che proprio oggi è arrivato di nuovo in palestra. C'hanno quasi tutti i bambini che oggi ho vado in palestra. E mi fa molto piacere anche vedere qualche battutina anche con questi bambini. Poi spero un giorno magari di entrare anche nelle scuole a partire dalle elementari a finire nelle superiori. Se mi daranno il piacere di insegnargli a loro qualcosa, Ben volentieri. Pensi, Domenico, che effettivamente il pugilato potrebbe essere inserito nelle scuole? Perché è un'ipotesi che è stata avanzata in questi giorni sulla spinta delle vostre vittorie. Credi che sarebbe in qualche modo possibile? Sì, io lo spero, perché comunque per la gente che mi conosce siamo tutti bravi ragazzi. Alla fine è uno sport come tutti quanti gli altri. Alcune persone dicono addirittura che ti fai meno degli altri sport con meno contatto fisico. Comunque il pugilato è uno sport che richiede tanti sacrifici e tanto lavoro fisico, e penso che per i ragazzini c'è una buona strada da seguire per magari diventare più presto maturi e di combattere molto questo sacrificio dell'atletismo. Senti, l'oro di Assago in qualche modo ha rimarginato quella che era stata la ferita di Chicago 2007, quando eri arrivato argento ma con un brutto infortunio alla mano che ti aveva impedito di conquistare l'iride, e poi la delusione di Pechino 2008, no? Insomma, adesso che il tuo compagno di stanza Roberto Camarelle non può più prenderti in giro, adesso ci sono due belle medaglie d'oro per tutte e due in camera. Sì, comunque mi ha sempre preso in giro perché lui è così, prende in giro, no, penso che non l'abbia mai pensato. Solo che la ferita di Chicago si è chiusa, perché comunque dopo un campionato mondiale è bello, però io penso che quella di Pechino sarà difficile guarire da quella brutta fine. Poi tra 3 anni, secondo me mi reputo un po' vecchiotto, però no, la voglia c'è e spero di arrivarci bene come sono arrivato a Milano. Beh, direi che questo è l'augurio che ti facciamo e che facciamo alla nostra box. Bisogna anche far pace però con Clemente Russo, il tuo concittadino di Marcianise. In questi giorni vi siete lanciati parecchie frecciate. Non lo so, la frecciata l'ha lanciato lui, perché io non mi ritengo di quello che lui mi ha descritto. Non sono invidioso, addirittura a Pechino pianto sugli spalti dopo la sua sconfitta. Non lo so, a lui che gli è preso. Può essere stato un equivoco lasciato magari in qualche mia intervista subito dopo gli incontri, però alla fine mi è dispiaciuto solo che lui non mi avrebbe parlato di persona e me l'avrebbe detto solo tramite media o tramite giornali. Senti, vogliamo approfittare di questa occasione, di questa intervista radiofonica per lanciargli un appello. Incontriamoci in piazza Marcianise, guantoni da parte, ci si prende un bel caffè e la chiudiamo là. No, sì, ma alla fine così sarà. Penso che lui ha frainteso qualche mia intervista. E comunque credo che quando prima parleremo e aggiusteremo tutto. Vi auguro anche da professionista di fare grandi successi come si è riuscito nei dilettanti. È lo stesso augurio che noi facciamo a te, Domenico Mirko Valentino, neocampione del mondo dei pesi leggeri, di continuare a vincere fino a Londra 2012, poi oltre, poi chissà, magari anche tra i professionisti. Intanto grazie per essere stato ospite di Radio 24 e ospite di A Bordo Campo. Ciao, grazie. A Bordo Campo. Ancora insieme a Bordo Campo, abbiamo appena finito di parlare di grande box, ma anche di società, di cultura, di lotta alla camorra con Domenico Valentino. E invece ora parliamo di golf, perché nostro ospite è la stella emergente del golf italiano. 16 anni, veronese, sogna di sfidare Tiger Woods e fra pochi mesi sicuramente lo farà, e un giorno di vincere magari, chissà, anche alle Olimpiadi. Benvenuto a Bordo Campo, Matteo Manassero. Buonasera a tutti. Allora Matteo, partiamo subito magari dalla domanda più scontata, ma che ci incuriosisce parecchio. Su per giù i tuoi coetanei a 16 anni immaginano di diventare come Ibrahimovic, Kakà o giù di lì. Come nasce invece questa tua passione per il golf? Nasce da quando sono piccolo, che mio papà mi portava sui campi. Io mi sono appassionato da subito, fin quando avevo 3 anni, una passione un po' particolare, perché il golf non è concepito chiaramente da tutte le famiglie e quindi pochi bambini lo praticano, insomma, fin da pochi anni. Quel primo giorno sul green te lo ricordi? Come andò? Non me lo ricordo di preciso, però me ne ricordo di successivi, insomma, una passione che amo questo sport e quindi lo sto portando avanti cercando di divertirmi il più possibile e facendomelo piacere sempre. Allora, divertimento ma anche risultati sempre più interessanti, perché una bella figura al BMW Italian Open di Torino, poi la vittoria nel prestigioso Amateur Championship e poi quest'estate straordinario il 13° posto in uno dei tornei più prestigiosi al mondo, l'Open Championship, cioè il grandissimo British Open. Beh, insomma, quella che era nata come una passione sta diventando qualcosa di più serio. Quella che è nata come una passione sta diventando uno sport e fra poco diventerà un lavoro. Il British Open è stato anche l'occasione che ti ha consacrato, no, agli interessi dei media e del grande pubblico italiano. Com'è stato confrontarsi con i grandi campioni come Tom Watson, Sergio Garcia, gente che sta facendo e ha fatto la storia di questo sport? Sicuramente è stata un'esperienza magnifica per me, aver avuto la possibilità di giocarlo è stata una fortuna, perché è quello che ogni giocatore di golf desidera, credo, è giocare, poter giocare con quei campioni e in più giocare anche bene, proprio se unito alla perfezione. Sorprendente per te trovarti a fianco di questi campionissimi, ma immagino anche per loro, no? Trovarsi un ragazzo di 16 anni che teneva il passo. Che cosa ti hanno detto? Ma mi hanno fatto chiaramente grandi complimenti, mi hanno detto di spero di continuare così senza guardare, senza cercare di pensare ad altre cose e a cose che vengono poi dall'esterno. Cercare di pensare al gioco, basta che i risultati arriveranno. Qua in Italia, insomma, qua, no, gli appassionati di golf nostrani già immaginano di vederti prima o poi sul green insieme al grande Tiger Woods. Direi che l'occasione, tra l'altro, è anche abbastanza vicina, vero? Ci potrà essere l'occasione ad aprile al Master di Augusta che potrò giocare. Insomma, non è privilegio da tutti, no? Poter sfidare, assolutamente no. Poter sfidare Tiger Woods nel suo regno, no? Sì, certo. Golf italiano che sta vivendo, grazie ai tuoi risultati, ma anche a quelli di un gruppo di agguerriti golfisti e golfiste, un momento d'oro, no? Faccio riferimento ai risultati dei fratelli Molinari, di Diana Luna tra le donne, prima ancora c'era stata la grande stagione di Costantino Rocca. Ecco, da dove nasce secondo te questa tradizione e quali possono essere gli obiettivi di questo sport in Italia? Gli obiettivi di questo sport in Italia sono ancora pochi, perché comunque ci sono pochi praticanti e pochi risultati rispetto alle altre nazioni. Confrontando quanto gente gioca e quanto gente fa grossi risultati, si può dire che l'Italia è fortunata a averne. Sicuramente è una fortuna avere con così pochi praticanti un gruppo di atleti di così alto livello. Tornando alle cose che ti hanno spinto verso il green, verso questo sport, qual è l'aspetto di questo sport che ti piace di più? Il contatto con la natura, l'imprevedibilità dei tracciati? Un po' tutto, l'agonismo che comunque c'è nello sport, la calma di questo sport, mi piace il gesto, logicamente, lo swing, mi piace tutto di questo sport, insomma, la concentrazione che bisogna metterci, lo sport un po' particolare. Senti, si parla tanto di golf, ma c'è anche un anno scolastico da affrontare, perché a 16 anni, è chiaro, si è un po' divisi tra il green e i professori. A scuola come viene visto questa tua passione? No, devo dire che sono una scuola in cui mi aiutano molto, sono comprensivi e riesco quindi a portare avanti gli studi allo stesso modo. E i compagni di classe? I compagni di classe sono un po' straniti dallo sport che pratico e... perché comunque qua quasi nessuno lo conosce, però insomma mi tifano lo stesso. Quindi ti toccherà anche spiegare le regole, no? Ogni tanto mi è capitato, sì. Però se scatta la partita di calcetto che fa? Manassero ci va o si tira indietro? Ci va, assolutamente. Insomma, sempre presente, in che ruolo giochi tra l'altro? Io sarei un difensore in teoria. Però insomma, libertà di spingersi in attacco. Esatto, lì c'è assoluta libertà. Senti, ti chiedo ancora, tra i campioni degli altri sport quali sono quelli che ammiri di più? Che prendi? In questo momento ammiro un sacco Usain Bolt per quello che sta facendo, poi Michael Phelps, Federer, Nadal, tutti i più vincenti, insomma, sono tutte personalità differenti che però hanno la capacità di vincere sempre. E nello sport italiano i punti di riferimento? Nello sport italiano ci sono stati tanti campioni. Un punto di riferimento è quello nel golf di Francesco Molinari, logicamente. Poi possono essere tanti giocatori di calcio, insomma, tanti giocatori di parecchi sport che hanno fatto la storia dello sport italiano. Tra l'altro so che soffri per il tuo Milan, no? Sì, sto un po' soffrendo. Dispiacere per l'addio di Kakà, insomma. Un brutto momento. E senti, ti chiedo ancora, immagino che poi per puntare al professionismo ci sia un grande lavoro di squadra, no? Inteso anche come uno sforzo di tutta la tua famiglia, no? Nell'accompagnarti in questa avventura. Da questo punto di vista, come siete organizzati? Squadra compatta, ormai, direi. Sì, però io ormai vado da solo con la nazionale. I miei genitori mi portavano quando ero un po' più piccolo, che non ero in nazionale, quindi non mi organizzavano le trasferte, ce le organizzavamo in famiglia, diciamo. Quindi adesso è molto diverso, i miei genitori tendono a stare un po' di fuori e non mi seguono a molte gare. E questo ti spaventa un po' o lo ritieni comunque un passaggio naturale? Come stai gestendo questo momento? No, lo ritengo un passaggio naturale e non ci faccio nessun caso. Prossimo obiettivo, direi, per te, ma anche per il golf mondiale, è quello di sbarcare alle Olimpiadi, no? Se ne parlerà a Copenaghen ad ottobre, si potrebbe entrare nel programma olimpico del 2016. Quali pensi possano essere in quest'ottica i punti vincenti di questo sport, le carte da giocare al tavolo del Comitato Olimpico Internazionale? Io non lo so, perché non, sicuramente io sono di parte, quindi tutto per me sarebbe da proporre sul tavolo del Comitato Olimpico. Se ci fossi io lo promuoverei subito, però posso dire, non saprei neanche. E comunque il fatto che è uno sport praticato da tantissima gente nel mondo, quindi sicuramente sarebbe una disciplina seguita alle Olimpiadi. Penso che questo sia il maggior punto di forza del golf. Stati Uniti, Gran Bretagna, paesi asiatici, giocatissimo, quindi praticatissimo. Penso questo che sia il punto di forza maggiore. Insomma, l'idea di ritrovarsi nel 2016 nel villaggio olimpico con Usain Bolt vicino a distanza ti stuzzica? Bella, sì, non sarebbe male. Guardiamo al futuro, un sogno di Matteo Manassero, oltre a quello che può essere la classica buca in un colpo solo. Sogno in un futuro? Ma adesso un sogno può essere di in futuro vincere una gara del tuo europeo tra i professionisti. Fuori dal green invece? Ma fuori dal green non ho sogni particolari, insomma voglio finire la scuola, provare a finire la scuola lo stesso nonostante il passaggio al professionismo e basta, poi si vedrà la vita cosa mi farà affrontare. E allora, Matteo Manassero, chiudiamo così, con l'augurio di tante vittorie tra i professionisti e con l'augurio della promozione a scuola. Direi già sarebbe un buon modo di chiudere l'anno, no? Sì, assolutamente. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.